Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi arrivano come di consueto anche da Mira Lucchetti e Sotta Scenna, che sono in redazione, e Gianmarco Ferronato in regia. Ricca di tematiche la puntata di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano. Allora, potete comunicare con me e con i miei ospiti al 349-238-6666 per gli sms, siate sintetici nei commenti, Twitter Nessun Luogo 24, infine Facebook, il profilo è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. E in questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano partiamo dal Pakistan, andiamo a Islamabad. With the expectation that the government of Pakistan will facilitate and help in manners it can to the peace process in Afghanistan and in providing opportunities. President Karzai, that Pakistan will continue to extend all possible facilitation and the international community's efforts for the to the international community's efforts. E le voci che state sentendo sono quelle di Hamid Karzai e di Sharif, il premier pakistano. Si è incontrato con il presidente afghano e Karzai si è trattenuto un giorno in più del dovuto. Perché? Perché nel suo entourage ha rilasciato un comunicato stampa in cui ha chiaramente detto: qui si sta parlando del futuro di pacificazione e del coinvolgimento nel dialogo per la pace dei talebani. Per capire meglio il valore di questo incontro e che cosa ne può scaturire, do il mio buongiorno, ben ritrovato a Gian Michalessin del giornale. Gian, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Gian, colloqui fitti a Islamabad, senza la collaborazione del Pakistan, ovviamente, come dire, della pace in Afghanistan non se ne può parlare. Si sta lavorando sui talebani per il processo di pace. È iniziato questo conto alla rovescia in vista del ritiro del 2014? Beh, iniziamo col dire innanzitutto che questo è il 19° viaggio di Karzai in Pakistan. Certo, sono cambiati gli interlocutori, è cambiato soprattutto il premier pakistano, c'è Nawaz Sharif, ma bisogna ricordare anche che Nawaz Sharif era premier in Pakistan quando i talebani erano al massimo della loro potenza, ovvero sia in quella seconda metà degli anni 90, quando il Pakistan appoggiò pesantemente l'ascesa al potere dei talebani. E quindi bisogna capire effettivamente Nawaz Sharif se questo che si è protratto per un giorno in più, come avete giustamente sottolineato, sia un dialogo tra sordi, come lo è stato in precedenza il dialogo tra Karzai e i leader pakistani, o ci sia un Nawaz Sharif che ha cambiato effettivamente immagine, che ha cambiato mentalità, che vuole portare il Pakistan più vicino a una trattativa vera sulla questione dei talebani. Per ora, al di là delle parole, fatti concreti non ce ne sono, non abbiamo l'impressione di una grande svolta del Pakistan nell'ambito della trattativa di pace per l'Afghanistan. Sappiamo invece che nel 2014 ci sarà il ritiro e tutte le nazioni che si affacciano sull'Afghanistan approfitteranno del vuoto lasciato dagli americani per trasformare varie zone dell'Afghanistan in zone di influenza, e questo lo farà sicuramente il Pakistan, ma lo faranno anche la Russia, lo faranno l'Iran e gli altri paesi confinanti. Certo, fra le altre cose, ieri il governo italiano ha fatto sapere, dopo la visita del premier Letta lì in Afghanistan, che gli italiani resteranno dopo il 2014, saranno, si dice, tra i 500 e i 700 con compiti di addestramento, cosa che ha fatto inalberare Sel e Nicky Vendola, per esempio, tra gli altri. Ma ci si dice, ma come, gli Stati Uniti addirittura prevedevano una zero option, cioè di ritirarsi completamente, e gli italiani lasciano questi manipoli di istruttori. Nel caso basterebbero, Gian Michalessin, per, come dire, pacificare, per tenere più pacificato il paese? Sottolineiamo innanzitutto che chi si inalbera in campo politico dimostra come al solito l'ignoranza dei politici riguardo a dei fatti che da 10 anni ci coinvolgono direttamente, ovvero sia una missione che da 10 anni vede i soldati italiani impegnati in Afghanistan. È sempre stato detto sin dall'inizio che il ritiro non sarebbe potuto essere totale, ma deve essere un ritiro, ve lo si è detto già 6 mesi fa, 7 mesi fa, 8 mesi fa, che può essere un ritiro solamente che consente comunque di continuare quell'opera di creazione delle forze di sicurezza afghane, senza la quale il processo di pace non esisterà, ma esisterebbe solamente un ritorno all'era dei talebani, perché i talebani ben facilmente avrebbero la meglio di quel che è stato fatto fino ad oggi, di quel poco, di quell'embrione di esercito afghano che è stato creato. Per questo è assolutamente necessario che le forze, in questo caso 500-600 uomini per l'Italia, ma forze anche di tutti gli altri paesi della NATO, concorrano a continuare quel lavoro di creazione dell'esercito afghano. Questo basterà? Non lo sappiamo. Servirà innanzitutto un'operazione di persuasione nei confronti delle nazioni come il Pakistan, che in questi anni hanno soffiato sul fuoco, hanno aiutato i talebani attraverso servizi segreti più o meno deviati, e questo sarà fondamentale per garantire la pace. I 500-600 soldati italiani chiamati a terminare l'addestramento dell'esercito afghano potranno svolgere solamente un ruolo di contorno nell'ambito di una politica governata a livello mondiale che punti propriamente a eliminare le influenze esterne in Afghanistan. Chiarissimo. Gian, l'ultimissima domanda, prima di lasciarti al tuo lavoro, da indiscrezioni e da agenzie emergono un po' di leve che su quel tavolo di Islamabad si stanno mettendo, no? E vi sarebbe ad esempio fra le leve messe in campo la scarcerazione del braccio destro del Mullah Omar. Su quali punti secondo te, secondo le tue fonti, si stanno parlando Sharif e Karzai? Cioè, su quali ci può essere un accordo, un'intesa, un do to des? Chiaramente l'accordo, il do to des, è lasciare quanto Karzai sarà in grado di lasciare, potrà o vorrà lasciare mano libera al Pakistan all'interno del futuro Afghanistan. È chiaro che il Pakistan punta, come ha sempre puntato anche in passato, a un'egemonia totale, a un controllo totale delle aree abitate dai Pashtun, ovvero sia da tutte quelle aree che la linea Durham, disegnata alla fine del XIX secolo dagli inglesi, separò da quella che è la loro naturale patria, ovvero sia il Pakistan, le tribal area del Pakistan. E a questo puntano i pakistani, c'è poco da nascondersi dietro i negoziati, pseudo negoziati. E ovviamente dall'altra parte Karzai, bisogna vedere quanto sarà in grado di mantenere in piedi un governo afghano, e questa è un'impresa che è al limite dell'impossibile. Quindi io penso che più che una trattativa stiamo assistendo a un braccio di ferro in cui il Pakistan, che è l'elemento forte in questa trattativa, cerca di imporre i suoi diktat a Karzai, e Karzai che è il vaso di coccio tra i vasi di ferro, deve cercare di barcamenarsi tra chi potrà garantire la sua sopravvivenza, non solo politica ma anche fisica, ovvero sia il Pakistan, l'Iran e le altre grandi nazioni che si affacciano sull'Afghanistan. E vedremo se questo vaso di coccio, come lo definivi tu, reggerà agli urti nei prossimi mesi. Grazie Gian Michele Sin per essere stato con noi, il giornale, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, le ultimissime sulla Siria le avete sentite dal GR, ci sono anche le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Bonino. Voglio tornare sul tema siriano, lo facciamo con Daniele Raineri del Foglio. Daniele, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno. Allora, Daniele, ispettori sul posto ieri con quel piccolo colpo di scena per cui sono stati oggetto di tiri da parte di cecchini, hanno ritardato di parecchie ore l'arrivo sul posto, poi da quello che racconta la stampa hanno preso campioni, hanno fatto analisi eccetera, vedremo nelle prossime ore quale sarà il risultato delle loro indagini. Bisogna capire se è stato un attacco chimico, di che tipo di sostanza si parla, soprattutto a chi appartiene la pistola fumante, e su questo il ritardo del via libera dato da Assad, come dire, qualche sospetto potrebbe farlo nascere. Ma Daniele, che idea ti sei fatto di quell'attacco, secondo la tua esperienza, secondo le tue fonti? Ricordo che Raineri ha lavorato in Siria parecchie volte negli ultimi mesi. Ma sì, innanzitutto vorrei dire che quello che tu hai chiamato un colpo di scena, ovvero gli spari contro il convoglio degli ispettori delle Nazioni Unite, sì, mandato sul posto a verificare che cosa è successo mercoledì scorso, In verità in Siria non è stato percepito come un colpo di scena, in verità è stato come dire, anticipato puntualmente come da noi potrebbe essere una lite tra Bersani e Renzi, diciamo che tutti i siriani che conosco dicevano: ma vedrai che non mi fido, succederà qualcosa, mi sembra troppo strano che abbiano dato. Quindi bisogna dare atto, diciamo che queste fonti siriane, questi amici, poi ci hanno azzeccato, non credevano che tutto sarebbe andato liscio. Come poi invece più o meno sta andando, perché poi diciamo, gli ispettori in effetti, dopo diciamo, questo primo incidente, sono riusciti ad arrivare sul posto. Diciamo che secondo me stiamo diciamo, ignorando un fatto che è molto importante su questo attacco, ossia che per i 5 giorni successivi alla strage con armi chimiche, il governo siriano ha bombardato con uno dei bombardamenti che è stato definito uno dei più intensi della guerra in Siria, ha bombardato le stesse zone che fanno parte, diciamo, della fascia di aree abitate che sta attorno a Damasco. E secondo me questo elemento, diciamo, insomma, non viene ricordato abbastanza. L'artiglieria siriana ha demolito sistematicamente e ha colpito le zone dove sarebbero caduti i razzi con testate chimiche. Sì. Quindi, diciamo, in questo modo ha nascosto le tracce, ha fatto scappare la gente e i testimoni, ha complicato di molto il lavoro degli ispettori ONU, ecco, che già, voglio dire, era di molto complicato dal fatto che sono passati 5 giorni appunto dalla strage di mercoledì. Si sa che il gas, si sa che armi chimiche sono molto volatili, insomma, diciamo che prima si va sul posto, più Certo, si e hanno prima prove sì. fresche e meglio si riesce a documentare che cosa è successo. E Chiarissimo. quindi ecco, insomma, già questo fatto mi sembra incriminante, nel senso, se tu hai degli ispettori delle Nazioni Unite che stanno al Four Seasons di Damasco a 15 km in media, perché poi i Sì. luoghi colpiti sono 8, però in media stanno tra i 15 e i 20 km dei luoghi colpiti, e se il governo con una telefonata riesce ad aprire i posti di blocco, quindi nel senso al massimo in un'ora riesce a far arrivare gli ispettori sui luoghi del presunto attacco chimico, Sì. ecco, perché non lo fai? E questa diciamo, la grande domanda a chi si chiede: ma perché Assad sarebbe così stupido Sì, da commettono suicidio attaccare anche. con i gas proprio mentre c'è un team di ispettori dell'ONU in Siria? Beh, una risposta è questa, perché sa benissimo di poter concedere o negare l'accesso alle zone colpite dai gas. Infatti il mandato originario del team delle Nazioni Unite prevedeva che loro andassero in tutt'altro posto, verso nord, Sì, verso Aleppo, in altri chiarissimo. due posti. Daniele, ti interrompo un istante perché c'è l'informazione finanziaria e poi ho un'altra domanda chiave per te. Nessun luogo è lontano. We learned snipers deliberately shot at the team investigating a chemical weapons attack. The team was heading to the site of the alleged attack. The team is meeting with victims of the alleged chemical attack right now. Secretary of State John Kerry made it clear the US is certain chemical weapons were used and that he knows who they were used by. The first-hand accounts from E così humanitarian avete sentito prima quel colpo di scena che dicevo della sparatoria sugli ispettori dell'ONU che Daniele Ranieri del Foglio ha, come dire, gli ha restituito la dimensione giusta nell'ambito del caotico teatro siriano. Insomma, ci ha detto, bah, fondamentalmente parlando con le mie fonti, un po' ci si aspettava che non tutto sarebbe filato liscio. Però è interessante notare che in questo modo l'arrivo sul sito è stato ritardato di parecchie ore, perché gli ispettori sono tornati indietro, hanno dovuto cambiare veicolo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mentre intanto le agenzie ci dicono che il ministro degli esteri Bonino ha detto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU si potrebbe riunire già domani, ma sappiamo già che sarà un nulla di fatto, perché c'è il gioco dei veti incrociati, ovviamente, che incombe sempre sulla Siria. C'è anche chi scrive: ma attenzione, vere prove di un utilizzo di armi chimiche non ce ne sono. C'è anche chi ha scritto: ma come? Abbiamo visto quei video di gente che componeva, maneggiava cadaveri senza alcuna protezione, e quindi grandi punti di domanda, grandi dubbi. Ma un'altra domanda volevo fare a Daniele Raineri, che è ancora con noi. Tu che hai lavorato sul terreno parecchie volte, anche recentemente, uno dei fattori che più preoccupa gli interventisti occidentali è con chi parlare e la grande frammentazione dei gruppi armati, con quali brigata rapportarsi sul terreno. Che cosa ci puoi dire da questo punto di vista? Confermi che è veramente un mosaico incredibile di brigate, tra cui alcune legate all'Al-Qaeda? Io posso dire che, diciamo, che la tragedia assoluta prima, diciamo, della comparsa dell'uso di armi chimiche e anche prima, diciamo, dei missili balistici sulla città, ecco, diciamo che la terza grande tragedia di questa guerra è che non c'è una parte a cui poter fare riferimento. I gruppi ribelli, che un anno fa erano già 800, adesso sono 1200. Ora, quando sento i siriani, perché poi ci sono anche dei siriani che non sono estremisti e non sono assadisti, lamentarsi, diciamo, che il mondo non riconosce l'opposizione siriana, che nessuno vuole lavorare con loro, come invece è successo da altre parti, per esempio in Libia, sì. Ecco, viene da rispondere così: se 1200 gruppi, come si può pretendere che di averli come interlocutori? A parte che molti non vogliono assolutamente, anzi si preparano, diciamo, anzi sono filo Al-Qaeda e quindi non vorrebbero, però è un'opposizione così frammentata che è assolutamente impossibile riuscire a trovare un interlocutore per il dopo, tanto che grossolanamente si può dividere, diciamo, gli anti-assadisti in due tronconi, ossia ci sono i cosiddetti generali da hotel, che sono quelli che stanno fuori dalla Siria e che credono di comandare, credono di avere influenza sul campo, credono, insomma, di poter dire la loro, ma poi la loro influenza veramente è scarsissima. E poi ci sono quelli che invece stanno dentro la Siria e combattono, e però non hanno molti rapporti con chi sta all'esterno. Sì. E tra questi, appunto, anche i gruppi legati ad Al-Qaeda. Sì. E poi, Daniele, non so se sei d'accordo, c'è un grandissimo assente dopo questi 2 anni e mezzo di conflitto, che è la parte politica, l'anima politica, no? Della posizione di anti-Assad, che in qualche modo è taciuta dal fragore delle armi, o forse non ha la forza, la compattezza, cioè non si vede forse, no, una proposta, una visione per il paese del futuro. Forse è prematuro, per carità, però mi sembra il grande assente, mi sembra la voce politica, correggimi se sbaglio. Sono molto d'accordo, diciamo che gli attivisti sul campo in Siria sono come scomparsi, diciamo si tengono prudentemente sotto il tuo dell'acqua, non si fanno più vedere, e ora non solo perché hanno paura, diciamo, del governo di Assad, ma anche perché, e questo me l'hanno detto, hanno paura degli estremisti, diciamo che si è aggiunto un nuovo nemico, ossia queste bande di estremisti stranieri, molti dei quali sono arrivati da fuori, quindi è difficile fare come prima gli attivisti, fare politica, se hai a che fare con questi fanatici che dicono la politica non conta, tanto vogliamo un califfato, quindi perché perdersi così in tante distinzioni? E questo, questo diciamo, vale per gli attivisti che sono dovuti scomparire all'interno. Per quanto riguarda l'esterno, diciamo, la grande comunità siriana che sta all'esterno, che potrebbe proporsi come rappresentante degli interessi siriani in un post Assad, è spaccata in mille bestie politiche tra il Qatar e l'Arabia Saudita e la Turchia, insomma. Si danno colpi a vicenda in questi organismi rappresentativi, ma neanche tanto, che stanno all'esterno, per cui prima prevaleva il Qatar, ora prevale l'Arabia Saudita, insomma vanno avanti con questi giochetti politici che però, insomma, non fanno la differenza. E se casomai contribuiscono a creare, come dire, un clima e una complessità di fronte alla quale la comunità internazionale per il momento... La comunità internazionale è scaricata in blocco praticamente, perché nessuno, tranne gli addetti ai lavori, gli specialisti, riconosce un volto, una faccia dell'opposizione siriana. Voglio dire, il regime siriano sta commettendo delle atrocità, eppure non c'è una figura carismatica che vi si oppone, qualcuno attorno a cui ci si può raccogliere, qualcuno anche che fa dire a noi, ah guardate, ecco, uno che sta contro Assad e vuole, no, non c'è soltanto un pulviscolo di figure mediocri che neanche riconosciamo. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie Daniele Neri, Il Foglio, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Insomma, per sintetizzare, forse anche con un po' di una vena di pessimismo, polverizzazione sembra la parola d'ordine, polverizzazione delle milizie sul campo, dell'opposizione politica. Chissà se il futuro della Siria è scritto in questa parola, ovviamente è uno dei tanti spettri che la cui ombra si getta sul paese. Vedremo nelle prossime ore, che potrebbero essere cruciali. Adesso voglio cambiare completamente argomento, voltiamo pagina, andiamo in Messico, vi racconto la storia della bestia. At least five people were killed when a cargo train nicknamed La Bestia, or The Beast, on which would-be migrants hitch rides toward the U.S. border, derailed in southern Mexico on Sunday. La Bestia, los trenes de carga que cruzan México de sur a norte y en los que tantos inmigrantes ilegales tratan arriesgando su vida de llegar a la frontera con Estados Unidos. El número de inmigrantes que pierde la vida al tratar de cruzar la frontera sur del país va en aumento. De acuerdo con la patrulla fronteriza, 70 cuerpos han sido encontrados en el área del Valle de Río Grande. Estas personas perdieron la vida. Hoy te levantaste sin ganas de continuar. Te entiendo, mi hermano, es difícil tolerar la discriminación de esta nación que clama ser unida, pero solo causa heridas. Injusta es la vida. E la bestia è questo lunghissimo treno che fa un percorso ancora più lungo. Percorre l'intero Messico da sud a nord, sono migliaia e migliaia di chilometri, e porta con sé merci. E sopra i tetti però dei vagoni vi sono anche centinaia e centinaia di persone a ogni viaggio. Sono persone che vengono da vari paesi dell'America Latina, saltano su questo treno, tentano di raggiungere quello che è il confine Messico-Stati Uniti per poi tentare di entrare illegalmente appunto negli Stati Uniti. La storia della bestia in questa ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, però prima è utile fotografare il fenomeno della immigrazione irregolare fra Messico e Stati Uniti. Noi siamo così concentrati su quello che accade a Lampedusa che ogni tanto ci dimentichiamo che agli antipodi avvengono fenomeni molto molto simili. Una delle comunità più nutrite degli Stati Uniti è quella messicana, con oltre 33 milioni di persone tra immigrati e messicani naturalizzati. Il numero dei residenti americani nati in Messico è il più alto rispetto agli altri paesi di provenienza e tra tutti i messicani del mondo, uno su 10 vive negli Stati Uniti. Dei 12 milioni di immigrati messicani, il 51% è costituito da clandestini. L'immigrazione illegale ha subito però un calo. Da 7 milioni nel 2007 si è infatti passati a poco più di 6 milioni nel 2011. Si stima siano 500.000 le persone che cercano di arrivare ogni anno negli Stati Uniti dal Messico, mentre sono 18.500 gli agenti che sorvegliano gli oltre 3.000 chilometri di confine, costituito per due terzi dal Rio Grande e protetto per circa 1.000 chilometri da recinzioni di vario tipo. Le politiche anti-immigrazione degli ultimi anni hanno portato a un aumento dell'87% dei poliziotti di frontiera e un incremento delle misure di sicurezza tra il 2006 e il 2011. Le città messicane di confine hanno tra i più alti tassi di omicidi nel mondo, determinati dalla lotta tra smugglers per il controllo delle rotte di immigrazione. Nelle città di Juarez, Nogales e Tijuana si contano rispettivamente 283, 104 e 80 uccisioni ogni 100.000 abitanti. Questa è la fotografia del fenomeno che coinvolge Messico e Stati Uniti, ma poi vi faccio saltare a bordo di questo treno della bestia con il racconto di un collega lì da Città del Messico subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. La polizia te sta extorsionando. L'immigrazione irregolare dal Messico agli Stati Uniti corre su due binari, non metaforicamente, su due binari di ferro e su un treno merci che percorre migliaia e migliaia di chilometri e porta questi centinaia e centinaia di migranti fino al confine degli Stati Uniti, dove lì se la giocheranno corrompendo le guardie di frontiera, affidandosi ai trafficanti di uomini. Federico Mastro Giovanni è un collega freelance basato a Città del Messico, ci è salito su quel treno, ha fatto numerosi reportage. A lui ho chiesto il primo contatto che ha avuto, la prima impressione che ha avuto saltando sulla bestia. Beh, è stato inquietante, molto ansiogeno. Il primo contatto con la bestia l'abbiamo avuto io e un collega fotografo, Fabio Cutti, che è italiano, che vive qui, e dovevamo aspettare per alcuni giorni in un paesino del Chiapas meridionale, a Riaga, che partisse il treno, e quindi il treno per alcuni giorni non parte, gli orari non si conoscono e i migranti rimangono lì ad aspettare in questo posto caldissimo per giorni finché il treno non comincia a sbuffare, e quindi capiscono che partirà e si lanciano tutti sulla bestia. Però è una sensazione già di tensione molto forte, perché nella zona ci sono gruppi criminali che assaltano i migranti, che collaborano generalmente con tutte le forze di polizia messicane, l'esercito, l'istituto di migrazione, e quindi è come se fosse uno scenario da savana in cui ci sono le prede, che sono i migranti, che attendono, e ci sono i predatori, che sono tutti questi altri che aspettano anche loro che parta il treno e che quindi siano più vulnerabili. E quindi questa è stata la prima esperienza, e salire su quel treno è atroce, devi salire 5 metri fino sul tetto, un caldo da morire, ci si scioglie sopra e poi non si sa quando ti puoi scendere neanche per andare in bagno, per fare pipì. È una cosa, un'esperienza veramente che non consiglio a nessuno, e migliaia e migliaia di persone lo fanno quasi quotidianamente per trasportarsi dalla frontiera del sud del Messico fino agli Stati Uniti. Ecco, dici che si sale sul tetto perché dentro le carrozze non è un treno merci? No, come... è un treno merci, la ferrovia passeggeri è stata smantellata in Messico negli anni 90, e quindi rimangono soltanto i treni merci, e i migranti devono salire per forza sul tetto, non c'è modo, non si può entrare dentro. Per cui sono tutti in cima, sono vagoni interi, a volte di 500-800 persone stipate lì sopra, che viaggiano per giorni in balia di qualsiasi cosa. Soltanto viaggiare su quel treno è molto duro, perché il clima è caldissimo, umidissimo, e poi ci sono i rami degli alberi che colpiscono le persone. Io mi ricordo la prima notte, anche stando completamente sdraiati e legati per non cadere, i rami ti colpivano in faccia, perché per molti chilometri ci sono questi alberi bassissimi. Già soltanto questo è molto molto disagevole, e in più ci sono gli assalti, le violenze continue, i sequestri di persona di gruppo. E ora i deragliamenti anche sono abbastanza frequenti, e sono tragedie, perché lì viaggiano anche bambini, insomma, viaggia qualsiasi tipo di persona che desideri farsi una nuova vita negli Stati Uniti, ci prova. Sotto i migranti che merci trasporta il treno di norma? Ma il treno trasporta molto cemento, ci sono molti vagoni di cemento, di granaglie o di metalli, che poi peraltro vengono anche rubati da qualcuno, che quando il treno si ferma dei gruppi di persone che assaltano in qualche modo alcuni vagoni per portarci via un po' di materiali. Però principalmente sono granaglie, cemento, ferro e altri metalli che vengono trasportati da una parte all'altra del paese. E quanto dura il viaggio? Tu quanti giorni hai fatto su quel treno? Io ho fatto varie tappe di alcuni giorni, la più lunga è stata di 6 giorni, e fermandoci diciamo in vari posti, però era in una carovana in cui erano presenti alcune associazioni di difesa dei diritti umani, principalmente sono religiosi, che hanno delle case del migrante, che ospitano i migranti centroamericani sul territorio, gli danno da mangiare, un minimo di aiuto umanitario, ma totalmente isolati. Sono viaggi lunghissimi, non c'è una cifra unica, dipende da quanto si ferma il treno. Ci è toccato per esempio rimanere fermi, immobili, in mezzo allo stato di Tabasco per una giornata intera sotto il sole, senza sapere perché il treno si è fermato e rimane lì, e quindi può durare settimane il viaggio. Ovviamente i migranti scendono dal treno in alcuni posti in cui sanno che ci sono case del migrante e magari si fermano qualche giorno e poi prendono il successivo, però è molto variabile il numero di giorni di viaggio. Qual è il pericolo maggiore a cui sono soggetti i migranti e tu quando li hai accompagnati? Che pericolo hai corso? Sicuramente sono gli assalti da parte della criminalità organizzata, che opera anche spesso attraverso le istituzioni messicane. Noi abbiamo subito un assalto da parte della Polizia Federale nel 2010, in cui la polizia sequestra i migranti. Quello che succede più spesso sono sequestri di gruppo da parte delle forze di polizia o dei funzionari dell'ufficio di immigrazione. I migranti vengono venduti ai gruppi criminali, primo fra tutti gli Zetas, che in questi anni è il più pericoloso, anche il più potente del paese, è anche il più violento, e a quel punto i migranti vengono utilizzati come schiavi per lavori forzati da parte dei gruppi criminali e poi uccisi, oppure viene chiesto un riscatto a familiari e parenti che vivono negli Stati Uniti, dai 2.500 ai $5.000 per persona, e se i soldi non arrivano entro breve vengono uccisi anche in quel caso. Questo è una... ormai è stato dimostrato è stato osservato da parecchi gruppi, da giornalisti, da gruppi di difesa dei diritti umani. Sono state fatte denunce, Amnesty International ha portato avanti una campagna molto forte negli anni scorsi proprio su questo tema, quindi non è più un segreto, soltanto che non c'è la volontà politica evidentemente per debellare questo tipo di pratica. Ecco, Federico, l'ultima domanda invece riguarda i rischi connessi a questo viaggio. Tu quando sei salito sul treno ne eri assolutamente consapevole. Sì. La totalità dei migranti conosce i rischi a cui va incontro o c'è una piccola fetta che salta sul treno e non sa esattamente che cosa può vivere? Guarda, è vero, alcuni non si rendono conto a cosa vanno incontro. Però la gran parte lo sa, perché per i racconti degli altri che sono stati sulla bestia prima di loro, dei primi anni, la componente dell'Honduras, honduregna, è la più importante, ma ci sono guatemaltechi, ci sono nicaragüensi, ci sono salvadoregni, però lo sanno e nonostante questo decidono che vale la pena provare per poter riuscire ad arrivare negli Stati Uniti e avere qualche possibilità in più, anche se poi saperlo spesso è teorico. Anch'io lo sapevo bene che cosa succedeva, le violenze, però poi quando sei lì sopra è un'altra cosa. Anche loro, sapendolo, con i racconti dei parenti, hanno un'idea molto chiara di quello che li aspetta o che potrebbe aspettarli, però poi l'esperienza che vivi lì sopra è molto più forte, però poi non puoi più fare marcia indietro e quindi rimani lì e cerchi di arrivare. E questa era la storia della bestia, di questo gigantesco e lunghissimo treno che tanti chilometri fa lungo la dorsale del Messico per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, e lì c'è il grande feticcio per tanti migranti che provano a entrare irregolarmente in quel paese, fenomeno che noi conosciamo bene perché sapete bene che quello che sta accadendo nel Mediterraneo, quello che accade ormai da tantissimi anni. Era la voce di Federico Mastrogiovanni, giornalista freelance di base in Messico. Tempo quasi scaduto, il tempo però per ringraziarvi e salutarvi. Grazie quindi a Mire Lucchetti, Isotta Scenna in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie a voi per essere stati all'ascolto anche quest'oggi. Nuovi luoghi, nuove storie domani alle ore 13:15, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.